Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... Oh, lo sapevo. Ho sempre immaginato... Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17.15 al martedì autogestito. Ed eccoci qua. Eccoci. Bentrovate a tutte e a tutti. Tra salti, 8 marzi, eccetera. Riandiamo in onda adesso, non dopo due settimane, forse dopo qualcosa di più. Ma riecco The Chart, puntata numero 11. Vi siamo mancate sicuramente, Donna Sonica e Pinclo, non ce lo diciamo mai questo fatto che sono qui in studio con voi. Sì, in effetti è passato un po' un tot di settimane. Un tot di giorni, ma se vi volete rinfrescare la memoria, womenchart.wordpress.com per vedere da dove siamo partite e dove stiamo andando. Vi ricordiamo che non ci siamo ancora fermate, ci fermeremo. E non sappiamo dove stiamo andando. Camminiamo a dentoni, come diceva qualche comico. Molto a dentoni. Molto a dentoni proprio. E quindi puntata numero 11, cominciamo a bomba così. Tanto lo sapete ormai come funziona, No, dai, ricordiamolo un pochino, perché sai che sono smemorate, cioè sono l'età avanza. Beh, insomma, la The Chart funziona così. Abbiamo cominciato un po' di, appunto, 10 puntate fa, questa è l'11esima, con un artista, e poi da lì, per connessioni varie, di vario genere, che possano essere musicali, personali, storiche, ma anche, insomma, associazioni libere e belle, passiamo da un artista all'altro, appunto, per raccontare un po' anche la storia della musica e per scoprire anche dei legami, nonché delle artiste che magari non conoscevamo. Sì, si imparano tante cose, si scoprono tante cose. Ci eravamo lasciate la puntata scorsa con Lord, questa giovane cantautrice, giovanissima cantautrice, femminista, orgogliosa di esserlo, e che lo dichiara nelle interviste come quella che avevamo citato di Al The Guardian, che io ho ritrovato para tradotta in uno dei settimanali dei nostri quotidiani del sabato. Infatti quando l'ho letto ho detto: questo mi sembra di averla già sentita. Vero? Le hanno dato la copertina, pensa un po'. Eh beh, insomma, una 17 anni che si esprime con tanta, anche diciamo facendo nomi e cognomi, quindi citando anche altre artiste, insomma, di grande successo, che però non la soddisfano. Dai. No, infatti apprezziamo il coraggio e la sfrontatezza, direi che gliela danno anche l'età, e bella così. A proposito di copertine, restiamo in realtà sulle copertine, perché io vi farò ascoltare St. Vincent, Beer in Reverse, e ci sono arrivata attraverso questo pensiero tutto mio sulle copertine. Perché, insomma, si sa che nel mondo del rock anche una copertina può fare la differenza. Cambiare la vita, proprio. In realtà quella dei giornali, anche quella dei giornali dedicati interamente alla musica, se vogliamo, è una storia molto rock, in qualche modo, in questo senso anche molto leggendaria. Basti pensare a Rolling Stone, che è stato fondato nel 67 a San Francisco, nella baia, o Cream, che è stata fondata nel 69 a Detroit, dove ci scriveva un certo Lester Banks, che poi molti di noi conosceranno, molte di voi conosceranno se hanno visto Almost Famous, il film che insomma ne fa in qualche modo quel ritratto anche molto, molto scherzoso e molto rispettoso della figura di un grandissimo critico musicale che ha raccontato poi quegli anni in maniera molto, molto bella. Ci sono anche diversi libri pubblicati in Italia con le sue, appunto, lucubrazioni musicali più che recensioni, più sì. Che, esatto, più che recensioni. Da Cream era, insomma, diciamo il rivale di Rolling Stone in qualche modo. Erano le due riviste che comunque erano un faro per tutti gli appassionati di musica e che hanno raccontato egregiamente la scena underground, hippie, folk e tutto quello, insomma, che ne è venuto prima e poi anche dopo. Questa storia delle copertine, perché? Perché a febbraio in Italia le due delle riviste nostrane, diciamo, più longeve e anche più autorevoli del panorama musicale, non ce ne sono tantissime riviste in Italia, ma insomma queste due riviste, che non dirò i nomi, tanto poi ve le potete andare a cercare, hanno pubblicato il mese di febbraio, sono due mensili, sono usciti con la stessa copertina. Da lì, no. Sì. Ovviamente tutte e due, quando si sono viste in edicola, secondo me hanno fatto no. Qualcuno ha iniziato, ovviamente è partita una querella che non riguarda noi, non ci interessa, infinita, inevitabili polemiche, ovviamente, tipo, c'avevo l'intervista in esclusiva io, quindi era ovvio che mettessi io la copertina, eccetera. E questa artista che è finita nella copertina, nello stesso mese, nella copertina di ben due riviste italiane di musica, era proprio Sam Vincent. Per questo allora mi sono incuriosita, ovviamente è nelle copertine perché è appena uscito il suo disco e appunto quello che poi sentiremo non è altro che il suo singolo. Lei ha iniziato a suonare la chitarra a 12 anni, sempre una solita polistrumentista, cantautrice e compositrice, è americana. È nata e cresciuta a Dallas, in Texas. Un giorno facciamo una puntata di connessioni solo sulle musiciste texane. Ed è una gigantesca chitarrista, diciamolo, perché non lo dicono spesso, ma di Sam Vincent, per fortuna, in giro si sente spesso dire cantante, autrice, bla bla bla, e straordinaria chitarrista, perché è veramente una qualità di strumentista incredibile. Ed eccola qui. Cry, I let them cry. Ah, bella questa canzone. È finita tipicamente rock, no? Col colpo, boom! Questa era Saint Vincent ed era appunto la prima connessione che si ricollegava alla nostra ultima puntata di Pink Claw, e io sono arrivata da Saint Vincent ai Tom Tom Club con appunto il pezzo Genius of Love, insomma un classico pezzo del loro primo album che è uscito un po' di anni fa. E perché in realtà i Tom Tom Club? Beh, è stata abbastanza facile la connessione. Saint Vincent raccontava che questo album, da cui appunto tu ci hai presentato un pezzo che è il primo singolo che è uscito, l'ha scritto praticamente di ritorno dal tour con David Byrne. Ha fatto un tour praticamente mondiale accompagnando David Byrne, che appunto è anche lui un straordinario musicista, noto soprattutto per essere stato voce e chitarra dei Talking Heads, che fanno parte insomma della nostra cultura musicale, ogni tanto vengono fuori, e nei Talking Heads c'era al basso una straordinaria Martina Michelle Tina Weymouth, che appunto il legame era anche diciamo l'anima, insieme al marito batterista Chris, dei Tom Tom Club. Quindi insomma Tina è un personaggio che un po' è molto interessante, ed ha anche delle altre connessioni con Saint Vincent che ho scoperto. Anche lei ha cominciato a suonare all'età di 12 anni, e questa è una cosa interessante, e anche lei aveva cominciato a suonare da autodidatta la chitarra. Quindi insomma c'era qualcosa nell'aria tra le due, prima ancora che esistesse The Chart. E poi a un certo punto, insomma, nei vari anni ha cominciato a provare diciamo a suonare il basso, vari strumenti, in realtà si è sempre divertita molto, finché appunto con Chris Franz, come vi dicevo, e David Byrne formarono prima un gruppo rock che si chiamava The Artistics, e poi successivamente Talking Heads, con cui hanno fatto la storia decisamente della musica fino al 91. Tra l'altro quando... lei è una bassista che ha fatto anche la storia dello strumento. Non solo, sì, diciamo, con la sua ascoltatrice, con la sua tecnica, sì, che si chiama finger picking. E insomma, che comunque e ripeto, da autodidatta, quindi insomma tutto quello che si è autoinsegnata e che ha rubato ai musicisti con cui si trovava, alle musiciste con cui si trovava a suonare, poi si è tradotta in una straordinaria tecnica che ha fatto scuola anche da questo punto di vista. Fino al 91 con i Talking Heads, e poi ci furono sempre dei progetti paralleli di tutti i componenti dei Talking Heads, tra qui appunto anche Chris e Tina, che misero diedero vita ai Tom Tom Club, che come si può dire, facevano una sorta di new wave divertente, ballabile, allegra insomma, e che ebbero un grandissimo successo con il loro primo album. Quindi insomma andiamo ad ascoltare Tom Tom Club, Genius of Love. We'll be right back. Andro e Shikindro, vaya. Ecco, quando possiamo ve le facciamo ascoltare tutte le canzoni per intero, perché ci piace, anche perché poi io sono anche questa fissa che secondo me è la fine delle canzoni, anche la fine della canzone ti dice tante cose, quindi dipende appunto. Sì, poi abbiamo perso un po' l'abitudine con questo fatto di ascoltare dal computer, spesso sentiamo solo la preview o solo un pezzetto, diciamo ah sì bella mi piace, però poi poi non l'ascoltiamo mai tutta. La mia prossima connessione, vi ricordo che state ascoltando The Chart, che questo è il martedì femminista e lesbico autogestito in onda fino alle 23, che ci potete chiamare allo 0649175050 e ci trovate qui. Insomma, la mia prossima connessione sono le Chicks on Speed con We Don't Play Guitar, che molte delle nostre ascoltatrici sono sicura che conoscono. In realtà la connessione è stata praticamente diretta, nel senso che quando io ho scoperto che uno dei miei brani preferiti delle Chicks altro non era che una cover di un brano del 1981 dei Tom Tom Club, non ho resistito, adesso metto le Chicks on Speed. La canzone di cui loro fecero la cover era World di Rapping Hood, che tra l'altro io penso di averla messa pure nelle mie poche rare serate che metto musica in giro ogni tanto, perché mi piace moltissimo. E ho ascoltato, infatti poi mi sono divertita ad ascoltare l'originale, la cover, per vedere insomma appunto quali fossero le atmosfere diverse. Tra l'altro la canzone si trova appunto nel disco 99 Cent, che è quello del 2003, che è lo stesso da cui ho preso We Don't Play Guitar, che insomma a me mi diverte un sacco perché suona un po' come un manifesto al contrario, un po' ironico, noi non suoniamo la chitarra, perché ricordiamo che loro sono un gruppo tedesco fondato a Monaco nel 1997 ormai da Melissa Logan, Kiki Morse e Alex Murray Leslie, e suonano quel genere che è stato chiamato poi dai critici o comunque definito un po' così electro clash, che in realtà è un genere, è un'elettronica che paga largamente secondo me il suo tributo sonoro e melodico alla new wave, appunto. Infatti non è un caso che appunto abbiamo scelto di fare la cover dei Tom Tom Club, perché appunto cioè I suoni sono quelli, la new wave, la disco degli anni 80, rimaneggiati con questo suono elettronico più attuale, però è forse quasi tutto l'electroclash paga il suo debito alla new wave. Quasi sì, tutto. Forse ha una strizzatina d'occhio magari a un po' al punk, no? All'idea un po' più tosta, più, no? Non sì, credi? Sì, forse sì, anche lì, forse anche di più da un punto di vista quasi estetico o comunque di mentalità dello stare sul palco piuttosto che del suono vero e sì. proprio. Mm. Sì, perché vabbè alcune canzoni sì sono molto elettroniche, quindi chitarre appunto se ne suonano, se ne vedono molto poche. E il punk lo sappiamo che è pieno di chitarre. Vabbè, le Chicks on Speed, We Don't Play Guitar. We always thought that we were not a rock and roll band, but it sure feels like rock and roll over here tonight. Insomma, non sono le chitarre, sì. Invece sì, infatti è tutto un gioco la canzone in realtà, dai, le suonano, non le suonano, Però per dire, probabilmente qualcuno, secondo me facciamo una serie di live show senza le chitarre, qualcuno andava a chiedere, ma lei si chitarre non le suonate? Quindi no, alla fine a un certo punto ha detto, sapete, ma ci scriviamo un pezzo. Non suoniamo le chitarre. E cover, siamo passati dai Tom Tom Club, da Tina a, diciamo, le Chicks on Speed tramite una cover, cioè attraverso una cover. E un'altra cover collega le Chicks on Speed con il prossimo pezzo, che è di una band elettronica sperimentale, anche loro nati a Berlino, insomma in Germania, che si chiamano Malaria, poco conosciute nella loro, la cover intanto che avevano fatto nel 2001 per un EP appunto che era uscito nel 2001, si chiamava Kaltes Klares Wasser, che era appunto un pezzo delle Chicks on Speed e dell'anno prima. E le Malaria sono in realtà non conosciute in Italia tantissimo come band, formata nel 1981, ma in realtà le componenti della band, poi se te le dico, ecco, per esempio Gudrun Gutt ti dice qualcosa? Sì, decisamente. Bettina Koster, Eva Gosling, Bette Bartel, insomma, artiste, e poi ce ne sono state delle altre che insomma hanno un po' girato, ruotato intorno a questo gruppo, una band anche un po' performer, no? Che quindi insomma cercavano di fare progetti non solo musicali ma anche artistici, e quindi di proporre varie cose durante le loro performance, e che appunto le cui componenti un po', come si può dire, ogni tanto si riunivano e mettevano insieme le energie per fare dei lavori. Sicuramente il loro album più interessante è quello più famoso, che si chiama New York Passage, appunto, che risale alla metà degli anni Ottanta, entrò anche in classifica in Europa, negli Stati Uniti, quindi insomma nelle chart indipendenti, quindi un po' più famose in quegli anni. Hanno accompagnato i tour per esempio di Nina Hagen, tanto per fare un altro nome, un nometto a caso. Insomma, ci andiamo ad ascoltare, faccio sentire, immagino che poche di noi conoscano questo gruppo, quindi magari approfondiamo anche conoscendole così. Loro sono Malaria, il pezzo si chiama You. Thank you. vi siete sentite giovani, eh? Giovani e cotonate. Quando andavate con il chiodo, gli anfibi, il mascara. Alle serate indie di New Wave, musica tutta anni 80. Che bello. E non sapevate che neanche cosa vi mettevano, per cui mettevano anche loro, che Miss Sconosciute, in mezzo tra i Depeche Mode e qualcun altro di Blondie. E voi le ballavate uguali. Ci scappavano le malaria. Sì, sì. Molto, molto New Wave. Io sono arrivata invece a Jesse Evans. Ha fatto un bel salto come che ci contraddistingue, nel senso che noi in The Chart cerchiamo anche di saltare tra i generi, no? Ma invece la connessione è molto stretta. Allora, vabbè, ce n'è una che non ho esplorato e lo capirete tutti, se no stavamo ancora ascoltando un altro pezzo di New Wave, perché loro... Poi sono andata in tour con Siux and the Benches, quindi mettere... Ma prima o poi Siux arriverà, lo sappiamo. Figurati se non arriva la regina della New Wave, proprio il gruppo della New Wave. Dai su, se parli di New Wave non puoi parlare... Non puoi non parlare di Siux and the Benches, secondo me. Cioè, ed è un genere che io non ho esplorato, ma per esempio ho ascoltato molti pezzi... Cioè, molti dischi di Siux, effettivamente. La sua voce poi era una roba fuori dal comune. Sì, ha fatto un po' di tutto, nel senso che poi ha anche fatto collaborazioni con tantissimi. Sì, poi le aveva un altro artisti. Gruppo di spalla che erano... Io le ho viste in Italia, penso un po', con i Creatures, quando lei era praticamente duo trio. Con i Creatures al concerto a Imola, dove suonavano, pensate un po', Marilyn Manson, i Blur, le Hall. Io ero andata per le Hall, lo giuro, lo dico, lo ammetto, faccio coming out, ero andata per le Hall, per Cart in Love. È stato bellissimo, ero giovane, dai, su, passatemelo. E c'era comunque nel pomeriggio, c'era Siuxi con nel l'altro... pomeriggio, tra l'altro. Sì, vabbè, figurati. Come vecchietti. Come i vecchietti, alle 4 con i The Creatures. Sempre una voce meravigliosa, comunque, non intaccata dal tempo. Insomma, Jesse Evans, perché? Perché? Allora, ho seguito invece le tracce di Bettina Koster, quella che tu nominavi prima, che è la voce e sax. E lei comunque, anche lei è una musicista ancora in attività, ha pubblicato dischi suoi fino al 2009 e nel 2006 ha pubblicato un album con Jesse Evans sotto il nome di Autonervous. Tutto un disco intero hanno fatto loro due, a un certo punto quindi si sono incontrati, quindi la connessione in realtà è molto diretta. Loro due si sono incontrate perché lei è americana ma vive di fatto a Berlino, quindi evidentemente nella scena ovviamente underground si sono conosciuti, hanno fatto insieme questo disco. Si sono chiamate Autonervous, probabilmente hanno fatto questo disco omonimo nel 2006 e la cosa simpatica evidentemente, dove tutte e due si sono sorprese, che entrambe suonano il sassofono, che non è proprio comunissimo, che non è comunissimo, esatto, che suoni se non fai jazz, diciamo, se non fai... E tra l'altro suonano il sassofono appunto in sonorità molto diverse da quelle a cui siamo abituati a sentire il sassofono. Infatti uno dei motivi per cui a me piace tantissimo questo disco suo di Jesse Evans, il pezzo che vi metto, Is It Fire, è che proprio si sente questo sax e dici, ci sta a fare un sax qui, però ci sta bene. Sta bene, c'ha un suono molto molto particolare. Il suo disco è stato pubblicato, questo disco, nel 2009, aveva come titolo, il titolo della canzone appunto che vi sto mettendo, Is It Fire, che è molto bella secondo me. Sentite, questo è il sax, eh? Eccoci, che bella Jesse Evans, cioè, ci piace un sacco il suo uso del sassofono. Ah, mentre... perché fa praticamente la seconda voce, nel, se lo pensi, nella canzone, gli fa da coretto. E in effetti una delle... ora mentre ne parlavamo, insomma, mentre voi ascoltavate il pezzo, mi veniva in mente che una delle connessioni sarebbe potuta essere X-Ray Spec. Che è appunto Spex, scusate, non so perché Spec, mi è venuto Spec, un po' da vegetariana, Spex, che era invece una band degli anni 70, Polistire, non so se vi ricordate, insomma, dove c'era Laura Logic che suonava il sassofono, e che è una delle band, diciamo, punk caratterizzate, pochissime band caratterizzate da un suono particolare come quello del sassofono. Ma in realtà io, partendo da Jesse, sono arrivata a un'altra artista che si chiama Karen Ann, che mi piace molto. Lei è intanto il collegamento tra Jesse e Karen è tramite il batterista che lavora con Jesse e che l'accompagna nei tour, dove lei praticamente fa tutto in realtà, però insomma ogni tanto prende dei musicisti, li mette sul palco, dice guarda, me dovresti fare un attimo sta batteria qui, te la faccio sentire, perché non posso fare tutto io con una mano, io posso fare tutto io, come diceva qualcuno, e che accompagna anche appunto i live di Karen Ann, che è una cantante, compositrice, produttrice e ingegnere del suono, quindi fa arrangiamenti e suoni anche per altre artiste, e produce il loro album, suona la chitarra, il piano, il clarinetto, insomma, veramente insomma una straordinaria musicista. E quindi ora stavo pensando, in realtà avrei potuto mettere Polystyrene, che ci stava bene dentro. No, vi faccio ascoltare Karen Ann, che l'ultimo album risale a 3 anni fa, del 2011, si chiamava 101, è il pezzo, appunto il singolo che era uscito da questo album che vi ho fatto sentire tempo fa, si chiama My Name is Trouble. Eccoci. Karen Ann, my name is Trouble. Che stavi dicendo? Stavo dicendo che ne chiacchieriamo fuori onda, non ce ne vogliate. Ma poi ve le diciamo pure queste chiacchierate. No, ma in senso, rispetto a quello che stiamo ascoltando, che l'inizio di questa canzone, l'incipit, giustamente, proprio la prima frase è My name is Trouble, my first name is a mess, che significa il mio nome è preoccupazione, il primo nome è un casino. Che è una di quelle proprio se non mi incontrare sono un problema. E ma acchiappa tantissimo. Dovremmo dedicare una volta una chart alle canzoni che iniziano con le frasi più belle e poi acchiapparle dalla fine, che rinizio cioè, never ending, come direbbe qualcuno. State ascoltando The Chart, sono le 18.05 e questo è sempre il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Alle 18.15 daremo i microfoni adatti e misfatti, ma intanto finiamo il nostro viaggio di oggi, più o meno ce ne mancano ancora due, e la mia connessione è Rosa Passos con Jardim o Jardim, che dir si voglia, bisogna vedere con quale lingua decidiamo di pronunciarlo. E in realtà anche qui la connessione è abbastanza diretta, come raccontava Dona. Karen Ann in realtà è appunto ingegnere del suono, polistrumentista, suono quello e nel mentre ha scritto pure ovviamente una si è ritrovata a scrivere anche una canzone per Rosa Passos, che è una grandissima artista nata nello stato di Bahia in Brasile. Anche lei è una chitarrista e una cantante di lunghissimo, cioè ha tantissimi anni alle sue spalle. Nel 2006 è uscito questo disco che si chiama Rosa, e in questo disco c'era questa canzone scritta da Karen Ann che si chiama Jardim, ed è la canzone che vi faccio ascoltare. Eu só quero sol verão, pé de manga de jasmim, muita fita do bom fim aqui no meu jardim. Eu só quero a luz marfim, afastando o que é ruim, respirar pirlim pim pim. Aqui no meu jardim, a chuva cai inundando o capim do mesmo céu. Vem você, querubim. Quero ouvir o passarinho. sobeando Tom Jobim, cachoeira e mar sem fim, aqui no meu jardim. Quero um cheiro de alecrim, tua beleza de adorim, e te ouvir dizer que sim. Tanto primavera questa canzone. Un po' primavera. Un po' primavera, l'erba che crea il sole, il dopo pranzo, il Brasile, raga. Comunque il Brasile, non c'è niente da fare. Fa il Brasile. Il Brasile fa primavera e estate. E la Rosa, che è appunto la tua ultima artista per oggi, insomma, ci porterà a una band giapponese che si chiama Ohio. E come ci sono arrivata? Beh, insomma, tu mi dicevi che Rosa suona la chitarra, ha suonato la chitarra, anche se poi negli ultimi anni un po' l'ha lasciata da parte per dedicarsi interamente al canto, e anche, insomma, facendo molto bene, visto i risultati ottenuti. E la prima cosa che ho pensato è stato, peccato, forse potrei mettere una chitarrista professionista, no? Perché a parte le musiciste che mettiamo, eccetera, poi ci sono proprio le chitarriste, quelle che fanno musica classica, quelle che fanno anche le turniste, ne parlavamo prima, insomma, sembra sempre che non ci siano queste turniste donne, invece ce ne sono un sacco. Una come Ana Vidovic, per esempio, che è una chitarrista acclamata a livello internazionale, che esegue musica classica. Cercate su internet, su, insomma, i vari siti, le sue esecuzioni di Albeniz, che sono veramente incredibili e bellissime. Insomma, ho cercato un po' di queste cose in rete e volevo concentrarmi un po' su qualche strumento inusuale, però ho pensato, magari cerchiamo uno strumento che di solito non troviamo, un po' come il sax di oggi nella musica che abbiamo ascoltato. È stato bellissimo imbattermi nei forum dove si parlava di, che so, qualcuno diceva, ma sarà possibile per un uomo suonare l'arpa? C'era uno che chiedeva una cosa del genere, come se l'arpa fosse uno strumento per donne, quindi diceva, che fai, ti metti a suonare l'arpa, non va bene, cose di questo tipo. No, la mia attenzione è caduta invece su Michio Yagi, che è una musicista e compositrice che suona uno strumento semi sconosciuto, immagino, almeno nel nostro occidente, che si chiama il koto, ed è uno strumento musicale a corde che più o meno appartiene alla famiglia della cetra, ed è un grosso, diciamo, una grossa cassa armonica lunga circa 2 metri, che si appoggia come una sorta di pianoforte con i suoi piedini a terra, e ha appunto queste corde sulle quali si pizzica con anche una piccola tastierina. Molto grande, insomma, non facile da suonare. Ovviamente si suona con un plettro simile ad un'unghia, quindi forse qualche volta questa descrizione è un po' vaga che ho fatto. Queste 13 corde che hanno un suono molto particolare, molto giapponese, che in realtà Michio ha imparato a suonare in maniera tradizionale, ed è una delle più famose compositrici per questo strumento, ma che poi è adatta per fare tantissime cose. Una delle cose assurde che fa lei è lavorare, ha lavorato con Jim O'Rourke, insomma, con tante cose, con tanti artisti e artiste abbastanza particolari. Ha un, per esempio, una band che si chiama Double Trio. Sono praticamente sul palco 2 batterie con 2 batteristi, 2 contrabbassi con 2 contrabbassisti e 2 koto con lei da sola, e fanno praticamente una sorta di doppio trio, fondamentalmente, e accompagnano le pazzie che fa lei. Nel 97, non paga di tutte queste belle cose che fa, la nostra Michio ha creato un trio che si chiama appunto Ohio, e che vi faccio ascoltare oggi. Sono in attività appunto da quegli anni, ogni tanto tirano fuori qualche piccolo lavoro insieme. Il pezzo si chiama Less Than Lovers, More Than Friends. E noi, visto che sono le 18:14, vi lasciamo con questo pezzo, che è l'ultimo pezzo della chart di oggi. Vi ricordiamo che li trovate tutto su womenchart.wordpress.com, nonché sul sito del MFLA, che è mflanoblogs.org. The Chart vi dà appuntamento fra 15 giorni. Mandateci le vostre, vi ricordo che sul sito potete scoprire come fare. Fatelo scopritelo. Prima che, scopritelo e fatelo prima che viene l'estate, che andiamo tutti via. E quindi vi lasciamo all'ultimo pezzo della chart di oggi, che sarà poi quello che darà via alla connessione della chart fra 15 giorni. Buon ascolto a tutti e a tutti. Incombe Attimi Sfatti, oggi ricchissimo, con tantissime compagne che ci chiamano per dirci cosa fanno. A presto. A presto, ciao. Ohio. I'm friends.